24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. La notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Allegramente col consenso generale, la frittata è fatta. E si chiama Gesù Cristo, cacciò i mercanti dal tempio. Forse sarei il caso di ricordarselo quando ci si proclama cattolici, eh? E non si fa una seria legge di corruzione e cacciare a calci nel c***o quelli che rubano. In un momento non te ne sei reso conto, la frittata è fatta. Dovete avere il coraggio di mettervi contro il potere, perché se no il potere siete voi e sono loro, e sono loro. Quando è che contrasterete il potere? È quello che vi ha distrutto e a noi non ci distruggerà mai, perché noi il potere lo schifiamo. Questo è il pontefice, se non volete sentire me, almeno sentite lui se vi va, ma d'altronde non vi va. Mi scusi, senatore Morra, non è consentito dare voce ai telefonini. È una citazione. Sì, ma è una citazione, la fa lei a voce. La corruzione spuzza. Non è consentito dare voce ai telefonini. Che cosa sia la schifezza, il fetore. Capito, capito, non è consentito dal regolamento del Senato dare voce ai telefonini. Era il senatore Morra del 5 Stelle, prima era un altro, Cioffi, sempre del 5 Stelle, quello che pacatamente ha detto la sua. Non si può far sentire il Papa attraverso il telefonino, la corruzione spuzza, spuzza. Quanta corruzione c'è nel mondo? È una parola, se noi la studiamo un po', è brutta, perché una cosa corrotta è una cosa sporca. La corruzione spuzza e la società corrotta spuzza. Ecco, però attraverso il telefonino è vietato alla Camera, è vietato dare voce ai telefonini, senatore Morra. Sono le 6:32 minuti, buongiorno cari ascoltatori, saluto anche Carmelo Lauricella in regia con noi questa settimana, anche domani? Benissimo, io domani invece sono in ferie. Razza di debosciati, voi vi sveglierete alle 6:30 per ascoltare Anna Migliorati, che sarà con noi. Saluto anche Lorenzo Nespoli in redazione, questa è 24 mattino, Siete già andati sul sito di radio24.it a scoprire tutte le novità, ci sono delle foto, guardate quelle di Lorenzo Nespoli, un po' meno le mie, non parliamo di quelle di Carmelo Lauricella, e poi ascolterete audio extra nella sezione 24 mattino, ci sono tante cose. Intanto voglio subito salutare il nostro amico Paolo Del Debbio, uno che parla attraverso i telefonini, è vietato. Paolo? Buongiorno. Pensa se fosse vietato a 24 mattino dare voce ai telefonini. Ma certo, ma c'è anche la foto di Peter Bescafè sul sito. Penso di sì, c'è la foto dell'alpino Peter Bescafè. Non Bescafè. Vabbè, ma a quest'ora un caffè ci vuole. Tu. Un caffè ci vuole, sì, è vero. Allora, sai chi ti presento oggi, chi c'è con noi? Non ho idea. C'è la Chiaretta, la Chiara Geloni, buongiorno. Buongiorno. La Geloni. Come che, va? Mamma mia, svegliata da 72 secondi. Esatto. Fate come a Dinolfi, che ci prendono come sveglia. Sì, domani alle 6:30 c'è l'intervento 24 mattino, va bene, allora la sveglia è la suoneria del telefono che ti suona. Esatto. Più o meno così. Oh, Del Debbio, no, ma lo sai che il 25 aprile torna l'Unità in edicola? Adesso, sono contento. Stato, sì. Chi la dirige? Infatti la Geloni non ce lo vuole dire, ma secondo me è lei il direttore. Ma non... No, sarei contento. Guardate, vorrei lasciare il telefono libero, per cui vi saluto, arrivederci. Ma non chiamano a quest'ora, dormono, chiamano dalle 7. Ma no, ma Matteo si sveglia presto. Ah, ma è Matteo che decide la direzione dell'unità? Ma secondo te? Decide tutto, quindi Del Debbio, tu che l'hai invitato un paio di volte, puoi mettere una parolina buona a Matteo? La metterei immediatamente, io Dem era una cosa utile. Ma guarda, e allora il combinato disposto tra la Geloni e la buona parola di Del Debbio, io direi che è fatta. È fatta. Sì. Mancava la buona parola di Del Debbio. Allora io vorrei aprire il Parlamento, lo faccio con il nostro amico Remo che ci scrive. Mamma mia. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Remo, però abbi pietà, Remo è il nostro cuoco. Non che cameriere non sia importante, sei cuoco alla DIG, alle Seychelles, ci segue da lì, dalla DIG, ci fa sapere che splende il sole, 32 gradi, ci chiede se abbiamo prenotato il volo, non ancora, un abbraccio dall'emisfero sud del mondo, un abbraccio anche a te Remo, è sempre, Paolo non è una barzelletta, è sempre in diretta con noi, se vuoi te lo chiamiamo in diretta, contento. Dalla DIG ci segue, fantastico. Ma che meraviglia, pensa te. Invece a Mediaset e lì a Segrate, che tempo c'è oggi? Non ci sono ancora andato, per mia fortuna. Sei nel letto, ancora, no? Esatto, no, non sono nel letto, ma non sono ancora andato a Cologno. Non sei andata con... Ma no, dove no, sei che non ti si sente ogni tanto, scompare? C'hai l'auricolare, io lo so. No, eccomi. Adesso ti senti. No, stavo facendo una manovra. No, adesso tu ci spieghi quale manovra stavi facendo. Bevevo un bicchiere d'acqua. No. Adesso vorrei sapere quale manovra. Non è consentito dare voce ai bicchieri d'acqua. Non è consentito, va bene. Tu, Chiara, ci credi? Ci credi che stava... Guarda, io a quest'ora sono molto comprensiva, non voglio sapere niente. No, perché noi siamo sempre incuriositi, noi siamo qua tutti vestiti, tutto punto, tutti già, vogliamo sapere come, ma non vogliamo essere pruriginosi, però vorremmo entrare nelle vostre case, anzi adesso lo metteremo una videocamera, vi ci collegherete... Vi collegherete d'ora in poi dalle 6.30 tutti gli ospiti con una videocamera che metterebbe... sarebbe bellissimo. Allora, la corruzione spuzza, avete sentito? Del Debbio, tu l'hai vista 1992? No, hai dato un occhio a questa nuova... Non l'ho ancora visto. Troppo impegnato, no. Ah, Del Debbio non l'ho detto, ma dalla vostra parte sta avendo un grande successo tutti i giorni alle 20.30 e poi c'è Quinta Colonna, ovviamente. Come se Dio vuole, sta andando bene. Il lunedì sera. Però siamo sempre a raccontare le stesse cose, che la corruzione non passa mai, ma è davvero così? Cioè, si tocca con mano? Beh, insomma, i fatti delle infrastrutture, tu lo sai, noi al lunedì facciamo, abbiamo fatto prima le province, le regioni, poi dopo ora ci siamo occupati di questa cosa, poi di altro, insomma, quel mondo lì degli appalti in particolare sembra che sia quasi impossibile venirne fuori. Io non lo so, ora io penso che in parte derivi dal fatto che veramente le varie regolamentazioni sono anche in certe parti abbastanza faraginose. Troppe regole. Però in parte anche proprio un costume interno anche alla pubblica amministrazione, perché lì non è solo la questione degli imprenditori, è una questione molta da parte di gente interna alla pubblica amministrazione, cioè gente che per fare le cose vuole essere pagata. Ora, se sia nato prima l'uovo o la gallina, cioè se sia nato prima l'imprenditore che gli dà o quello che gli richiede, in tante case è una cosa, in tante case è un'altra. Però di fatto c'è. Di fatto c'è, cioè, e non ci sono soluzioni, evidentemente, perché. Non lo so. Non lo so. Non lo so se è solubile, se è risolvibile la cosa. Solubile. Solo stai facendo il caffè, quindi è solubile. Vabbè, se lo volete non lo mando. No, va bene, ma è solo un termosatte e una lasagna. È solo invidia la nostra. Non so, Chiara, tu che hai, insomma, nella politica graviti, eccetera, ma è questa cosa della corruzione, ma perché poi si beccano sempre gli elementi sono sempre quelli, magari qualche imprenditore corrotto, qualcuno della pubblica amministrazione e il politico di turno, non si scappa. Ma, insomma, allora, di cosa parliamo? Perché se parliamo del caso, del recente caso del Ministero delle Infrastrutture, trovo un po' difficile dire non si può fare niente, cioè lì intanto allora il politico di turno non era indagato, ha avuto dei comportamenti poco simpatici, però fino a prova contraria non possiamo neanche pensare che sia, diciamo, implicato in questa indagine, perché hanno arrestato tanta gente, hanno indagato tanta altra gente, lui no, e quindi un motivo ci sarà. Poi su questa questione della corruzione sugli appalti delle grandi opere, a me sembra che non sia vero che non ci si può fare niente, bisogna cambiare le regole. Ho capito, ma si dice sempre così, ma poi ogni due anni siamo ai soliti casi. Veramente sono state anche cambiate, è anche successo. Adesso a me dispiace dover sempre fare il solito nome, ma il ministro dei trasporti Pierluigi Bersani. Mise l'obbligo delle gare di appalto, delle gare per avere le concessioni. Quel sistema che prima non c'era fu introdotto da Bersani, dopo qualche anno caduto il governo, un altro ministro di un altro governo, Berlusconi, che si chiamava Lunardi, ripristinò il regime precedente. La Geloni è bersaniana, però a volte anche i fatti sono un po' bersaniani, no? Ripristiniamo quella riforma e vedrai che con le gare c'è meno corruzione che non affidando a dei general contractor a discrezione o un accordo tra lo Stato committente e il privato che deve fare l'opera e magari la propone anche. Non mi sembra una cosa su cui non si può fare niente. No, certo, si può fare. Rendiamo questi grandi burocrati dell'amministrazione obbligati a ruotare dopo un tot di anni. È una riforma. Abbiamo il governo delle riforme, la faccia, e così vedrai che queste situazioni come quella di Incalza non si... Stai criticando più. Renzi? No, sto facendo una proposta costruttiva, perché secondo me non è vero, cioè è vero che c'è il peccato originale per cui dall'uomo non potrà mai essere estirpato del tutto il male, ma secondo me il mondo un pochino si può migliorare. Ma si può migliorare, e il dato di fatto, io poi ne parlerò alle 8:15, avremo Gerardo Colombo, no? Uno dei protagonisti anche dell'epoca delle Mani Pulite, poi adesso va in giro, Del Debbio va in giro per le scuole a raccontare in maniera meritoria ai ragazzi come si combatte la corruzione da subito, cercare di educare, insomma tanti discorsi, ma poi il dato di fatto che Chiara Giloni dice si può fare, Bersani qualche cosa aveva fatto, ma poi siamo sempre a raccontare le stesse cose, gli stessi... Allora, per dirla oggettivamente, no, ieri il Senato legislatore ha fatto una cosa scientifica, ha fatto vedere che con la legge obiettivo, che è quella a cui si riferisce la Giloni, che sarebbe quella fatta al ministro Nardi, i costi sono aumentati. Con la legge alla quale mi riferivo io i costi erano diminuiti del 30%. No, ma io sto parlando della legge Lunardi. No, ok, sì. Appunto, sono aumentate. Allora, sono aumentate. D'accordo. Sì. No, la gente aveva paura che parlasse male della legge Bersani. È subito partita con le unghie. Con le unghie alla gola. Sì. Va bene, io dicevo della legge Lunardi, e quindi questo è un dato e c'è nulla da fare. Già la vedete perché, ok? E questo lo vedremo, perché ancora il solo 24 ore su quello dice, bisogna vedere se è la questione dei tempi, se è la questione dei costi, se è la questione della corruzione, ok? Va bene, e questo è d'accordo. Però non è che prima non ci fosse la corruzione, andare sempre a vedere il medesimo articolo, ce n'era assai anche prima, perché non è che queste cose qui sono dovute alla corruzione, sono dovute in parte al fatto che poi ci sono moltissime... Cosa faceva la legge obiettivo? Doveva snellire le procedure, va bene? Diciamo così in generale. Beh, però del debbio che c'hai, ma si continua a sentire malissimo, ogni tanto vai e vieni. Allora doveva snellire le procedure, non lo so, che c'era doveva snellire queste procedure. Queste procedure in realtà provava a snellirle e poi arrivava il TAR da una parte e quello dall'altra di Stato, e quindi sono aumentati i costi. Va bene? Quindi io dico, la corruzione, ok, figurati, cioè, con tutto quello che ci costa, però c'è un problema, che con la legge precedente, quella del signor Bersani, erano diminuiti i costi, ma non erano diminuiti i tempi, capito? Mm. Questo è anche un dato oggettivo. Allora, per carità, bisogna diminuire i costi, però bisognerebbe anche snellire le procedure, perché sennò non... Sì, perché sennò si finisce sempre in TAR, corsi e ricorsi. Oddio, però, scusate... Scusate, io come ma si trova che... questo punto di equilibrio non lo so. Non lo so, però perché... non è che con la legge obiettivo siano finite tutte le grandi opere in un anno, cioè i tempi sono abbastanza lunghi lo stesso, si allungano un pochino facendo risparmiare allo Stato tanti soldi. No, lui ha detto il perché, ma dice la soluzione non nessuno la sa, cioè il punto di equilibrio. No, mi pare che invece quella che dicevo fosse una soluzione, anche se si allungano un pochino i tempi, sono già talmente lunghi, che non credo che muoia nessuno se lo Stato risparmia il 30% dei costi e si elimina qualche tipo di corruzione. No, la questione dei tempi sono importanti, perché cioè per fare le opere pubbliche. Con Lunardi non è che sono finite le grandi opere, no? Nel frattempo, però, dobbiamo andare al traffico a proposito di grandi opere. 24 mattino. Caro Alessandro, buongiorno. Senti, io sono un trentino e in merito alla polemica Poletti, era un disonore se non si lavorava durante le vacanze estive. Chi come cameriere nelle varie località turistiche del Trentino, chi nella raccolta di mele nella Val di Non. I soldini servivano poi per comprare i libri senza sporpare i nostri genitori. Adesso nel governo Renzi con questo piccolo rimpasto si parla di speranza, sembra di essere quasi in un film western alla Sergio Leone. Abbiamo il buono agli esteri, abbiamo il brutto agli interni, abbiamo il cattivo rapporto col Parlamento, poi abbiamo speranza forse alle infrastrutture e abbiamo sentenza alla giustizia e noi italiani continuiamo a fare i peones. Magari si potessero mandare i figli a lavorare d'estate, così ci prendono qualche soldino e non premono sui genitori. Io ci ho provato in tutti i modi, non c'è stato verso di farli trovare qualche cosa. Pensasse un pochino di più Poletti a quei restanti 9 mesi che se li devono passare in classi fatiscenti senza neanche la carta a pulirsi il culo. Ho visto che il sindaco Marino è un seguace dell'ISIS. Ha già provveduto a mettere la bandiera nera, vedi cartelloni pubblicitari. Adesso Marino seguace dell'ISIS per la decisione di bandire i cartelloni pubblicitari. Ti piace questa cosa, tu che stai a Roma, Gelone, anche se un giorno dovremo parlare di Carrara. Vabbè, se vuoi, quando vuoi parliamo di Carrara, la famosa puntata speciale, le mirabilie Carrara. Su Carrara, sai che Marino vuole vietare le donne le nude, no, sì, non si capisce se anche gli uomini nudi, gli uomini col pacco di fuori. Tu li vorresti vietare oppure no? No, io sono favorevole al pacco di fuori. Però dipende. Vabbè, in genere quelli delle pubblicità sono dei modelli, non è che appunto, sono dico. Alessandro Milan o Paolo Del Debbio, con David tutto il rispetto. Beckham, sono favorevole. David Beckham, sì, tanta roba. In quel caso sono favorevole. Vabbè, adesso scherzi a parte, insomma, ci sono delle pubblicità, adesso ce n'erano alcune che illustravano gli articoli su questa decisione di Marino veramente piuttosto volgari, adesso non so se vietarle con un decreto sia la soluzione, non mi intendo di no, perché poi ci sarebbe una commissione, tu faresti parte di una commissione che deve decidere, io? Questa è troppo volgare, questa. Ecco, sì, insomma, bisognerebbe che il cattivo gusto si mettesse da solo dei limiti, ma capisco che per definizione è piuttosto difficile. Segnalate a Marino? Sì. Tanto ora ha tempo, di qui in avanti avrà tempo, perché poi non si ripresenta. Di tanto a Roma non succede niente. Mamma no? mia, ma Marino è amato. Ma chi è che ama Marino? Io vorrei conoscere qualcuno. Ma segnalate a Marino che c'è già un istituto, si chiama di autodisciplina pubblicitaria, che fa questo lavoro qua. Quindi non occorre che faccia lui la commissione, c'è già un istituto a cui ogni cittadino italiano, avente la carta d'identità e avente i diritti, può riferirsi quando c'è una pubblicità volgare che non gli piace, sì, esatto. E che, ma infatti anche a me risulta, in ogni comune c'è una commissione. Si chiama Istituto di Autodisciplina, IAP si chiama. IAP. In ogni comune. Sospettavo che questa cosa che dici del Debbio, che non sapevo, ma... Ma no, ma infatti anche a me risultava che comunque le pubblicità devono essere... No, ma nazionale. Ma sì, devono essere approvate. Per la TV, per la radio... Evidentemente però non controllano abbastanza, secondo Marino. Uno ci si riferisce, allora Marino, che quando vede una pubblicità chiamano gli app e dice: questa pubblicità secondo me è volgare. Chiamate la Geloni, diranno, e dice se... Chiamate la Geloni, ma perché sei direttore dell'unità e quindi da direttore dell'unità dovrai controllare. Mi credono, poi mi mandano i tweet. Tu devi dire che scherzi quando scherzi. Ma chi scherza? Ma che si scherza? Ma adesso già ti ritiri. Cioè, guarda che io e Milan abbiamo fatto delle campagne che poi sono andate in porto. Allora, noi diciamolo chiaramente. Caro Matteo Renzi, poi te lo dice del Debbio privatamente. Anzi, che lui lo dico dalla vostra parte stasera. Geloni, direttore. Esatto, vabbè. Chiara Geloni diventi direttore dell'unità dal 25 aprile. Sai, primo esamino il 25 aprile, sai perché riesce il 25 aprile? Sai che data è, Chiara Geloni? Sì, è San Marco, c'è la fiera da Venza nella mia città. È vero, San Marco. Dai, 25 aprile, lo sa quindi può diventare direttore Chiara Geloni, ma guarda che è fantastico. Io editorialista del Debbio, ovviamente anch'io, grazie, del Debbio vice direttore, e rifacciamo l'unità, evviva. Allora io vi voglio far sentire in conclusione questo simpatico Crozza sul Papa di martedì. Sentite qua, non so se a Napoli l'hanno presa bene. È stato a Napoli una visita un po' rocambolesca, gli è successo di tutto, ma il momento più delicato è stato alla fine, al momento di risalire in macchina per rientrare a Roma. Quando stava per salire sulla macchina ha guardato i cardinali e ha detto: scusate cardinali, ma all'andata siete sicuri che la Papa Mobile ci aveva i mattoni al posto delle ruote? Eccolo lì, napoletani ruba gomme. Però nessuno però si è arrabbiato a Napoli contro il signor Crozza, non lo so. Del Debbio, tu che sei di Lucca, se dicesse... Nei napoletani ci stanno, lo scherzo. Ci stanno, napoletani ruba gomme. Vabbè. Cari napoletani, vabbè. Io salutate Crozza, può dire quello che vuole, sì, un po' così. Vabbè, stasera che fai dalla vostra parte? Non lo sai? E chi lo sa? Mi sembra presto per decidere. L'appello a Matteo Renzi, dai. Sì, questo si sa. Tutta la puntata sarà su questo. Per la Geloni. Porca miseria del Debbio, fallo, perché guarda che ti registriamo e ti mandiamo in onda. Carrara in Toscana, sono Toscana anch'io, anche un po' di appunto, roba. Appunto. Mettiamo... Carrara che a Firenze. E infatti i toscani in questo momento vanno fortissimo. Ma infatti tu di così, caro Matteo, inizia l'appello, abbiamo una Toscana per salvare l'unità. Sì, vabbè, qualche volta magari è stata un po' vicina a Bersani adesso, ma queste cose cambiano, guarda la Moretti, guarda... No, si cambiano, va bene, Chiara Geloni? E poi la mettiamo direttore dell'unità, almeno il potere di poter fare qualcosa, sarebbe bellissimo. Intanto vi ringrazio, Paolo Del Debbio, Chiara Geloni, alla prossima! Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:18 minuti, aspetta che stiamo facendo un selfie a Lorenzo Nespoli, redazione. Come potete vedere, io vi saluto dalla messa in onda,

Mentre notizia delle notizie, Agrigento, ricordate Silvio Alessi, ospite qui due giorni fa, ha vinto le primarie del centrosinistra, ma lui non si definisce del centrosinistra, anzi dice ho votato Berlusconi qualche volta in passato. Ebbene, il Repubblica giura, il PD ora vuole annullare le primarie di Agrigento. Antonio Fraschilla e Emanuele Lauria ricordano anche, senza citarci, di quando appunto Alessi ha detto ho votato Berlusconi, l'ha detto qui a 24 mattino, e ora il PD vorrebbe annullare le primarie. Notizia invece che ha solo il Corriere della Sera: Papa Francesco vuole andare e andrà a novembre nella Chinatown di Prato. Pagina 27, Dario Di Vico, la scelta sorpresa di Bergoglio, andrà a visitare la Chinatown di Prato. Ma eccolo qua, la carta costa. Sì, lo so, il Vinitaly. Ma una pagina del giornale, del Vademecum, sul vino e sui 10 miti da sfatare per bere scorretti e felici! Ma chi se ne frega! Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che te pozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Cari ascoltatori, alle 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. È una splendida giornata, è giovedì e sappiate che secondo l'OCSE, in un sondaggio Gallup, l'Italia è prima per percezione di corruzione, un indice di 90% nelle istituzioni governative e locali. Evviva! Pensate che la Svezia ha questo stesso indice del 15%. Corruzione, parliamo di questo. Com'è che ha detto il Papa qualche giorno fa? La corruzione spuzza e la società corrotta spuzza. La corruzione spuzza o puzza, come volete. Oggi il Fatto Quotidiano racconta un po' la storia delle mazzette dovunque, dopo che si è scoperto che una presunta mazzetta è stata trovata in una libreria con buste dentro i contanti. Beh, il caso Poggiolini, la mazzetta nei puff, ma anche le mazzette appunto nelle buste, le mazzette nei pacchetti di sigarette, le mazzette negli slip di quella figlia di un costruttore ligure fermato anni fa con 273.000 euro nelle mutande al confine, oppure la funzionaria del Ministero delle Infrastrutture che nel 2008 nascondeva nel reggiseno 4.500 euro. Ma siamo davvero un paese così allo sbando, dove a leggere i giornali sembra che non esista appalto, non esista lavoro, non esista situazione in cui non ci sia corruzione. Lo vogliamo chiedere, ne vogliamo discutere con un uomo che di queste cose se ne intende, perché le ha contrastate prima da magistrato, poi insegnando, andando in giro per le scuole a insegnare ai ragazzi l'educazione a combattere la corruzione. Si tratta di Gerardo Colombo, che ai nostri microfoni lo saluto. Buongiorno, dottor Colombo. Buongiorno. Ex magistrato, tra l'altro, proprio in questi giorni in libreria con un libro, Lettera a un figlio su Mani Pulite. Lei che Mani Pulite l'ha vissuta dal di dentro, edito da Garzanti. Intanto le chiedo, lei si occupava meno di mazzette, però c'è questa leggenda su Mario Chiesa, la mazzetta nel water. Si è appurata poi questa cosa oppure no? Anni. Io credo che sia importante il fatto che comunque è stata trovata la mazzetta, è stata trovata l'inversamento in contanti di 7 milioni. Dove poi non importa. Le chiedo però, Colombo, lei dice che porre rimedio... No, se mi ricordo bene sarebbero stati altri 7, se non mi sbaglio, perché come le dico sono passati così tanti, sì, anni, tanti anni. Io ancora non ero... Non era nel pool, questo no, certo. No, sono entrato 2 mesi dopo. Una delle sue teorie più ricorrenti però è che porre rimedio alla corruzione per via giudiziaria, cioè coi processi, è una sorta di battaglia persa. Perché una battaglia persa? Ma perché la corruzione è talmente diffusa nel nostro paese che lo strumento giudiziario è inadeguato, cioè non siamo riusciti a concludere i processi scaturiti dalle indagini di Mani Pulite, che sono finiti molto molto spesso in prescrizione perché erano troppi. Cioè è impossibile da una parte riuscire quando la corruzione è emersa, come è successo nel 1992, a star dietro a tutto perché è troppo, da una parte. Dall'altra, se la corruzione è endemica e riguarda le alte sfere come i comuni cittadini, poi va a finire che il modo di pensare, e cioè che si può corrompere e ci si può far corrompere, prevale sulla legge che la corruzione vieta. Quindi pensare di rappresentare i buoni, cioè dei magistrati contro i cattivi, e i buoni cercano di fermare i cattivi, è una rappresentazione forse da film, forse da... Anche perché poi se la corruzione è sistematica ed è sostanzialmente accettata dalla cittadinanza, perché si parla sempre male della corruzione altrui e poi per la propria si chiude un occhio, poi va a finire che ogni tanto succede che anche i controllori possono essere coinvolti in queste vicende. Lei lo racconta nel libro, per esempio, un aspetto che alcuni che mentre indagavano contro i cattivi indagavano anche in qualche modo, non dico a favore dei cattivi, o forse sì, è un qualcosa che non le è mai andato giù di quella vicenda. No, cioè di tradimenti, perché si tratta di veri e propri tradimenti, e cioè di persone che facevano le indagini per conto della Procura di Milano, Mani Pulite, ma anche prima i fondi neri dell'IRI e così via, e che contemporaneamente prendevano tangenti, e insomma quando uno lo scopre veramente rimane stupito. Cioè, rimane a pensare che non c'è battaglia, che è una battaglia persa. Esatto. Si dice che la corruzione negli appalti perché ci sono troppe regole. Lei, che ha dedicato una gran parte della vita proprio al rispetto delle regole, a insegnare il rispetto delle regole, però non ce ne sono troppe di procedure, di regole, di burocrazia? Io credo che ci siano troppe regole, ma le troppe regole dipende dal fatto che c'è troppa corruzione. Allora, cosa succede? È una specie di gatto che si morde la coda, no? Siccome manca la fiducia nei confronti dei funzionari pubblici, nei confronti dei cittadini, nei confronti degli imprenditori e così via, allora si cerca sostanzialmente di sostituire la fiducia, che è necessaria perché i rapporti interpersonali, le relazioni anche economiche e commerciali siano corrette. Se manca la fiducia si cerca di sostituirla imponendo attraverso le leggi un comportamento. E più si vede che queste leggi sono inefficaci, più se ne fanno altre. E per cui non si finisce più. Non si finisce più. Per esempio se ne sta facendo un'altra, per carità, non voglio entrare nel merito del provvedimento molto complicato, ma questo DDL anticorruzione, non so se lei lo sta seguendo, è una nuova ricetta per fermare la corruzione? Cioè mi dica la sua ricetta, da prima da magistrato e poi da uomo di legge. Come si potrebbe concretamente fare? Io credo che il problema vada affrontato molto molto seriamente a livello educativo, e cioè nelle scuole, ma non soltanto nelle scuole, formando gli insegnanti, formando i funzionari pubblici, formando la cittadinanza. È un percorso che richiede tanto tempo, e allora ci si potrebbe chiedere cosa facciamo nel frattempo. Ma nel frattempo cerchiamo di arginare la corruzione attraverso però dei provvedimenti che siano in linea con lo scopo finale. Lo scopo finale qual è? È quello di far arrivare a una convinzione generale secondo cui la corruzione è male, la corruzione è negativa. Per questo l'educazione per questo l'educazione è importante. Ma sull'educazione ci vorrei tornare tra un attimo. Prima però le vorrei chiedere, Colombo, si sente parlare sempre di cricca, di nomi, e si dice sono sempre i soliti nomi che rispuntano. Che cosa c'è di verità in questo? Lei che li ha visti alcuni di nomi? Sì. Leggendo i giornali mi sembra che alcuni nomi tornino alla ribalta, poi bisogna che siano celebrati i processi, bisogna arrivare alla fine perché c'è giustamente la presunzione di innocenza, però questo fatto così cronachistico io credo che vada rilevato. Perché succede? Succede perché, per esempio, una misura che credo sia difficile da introdurre e da attuare veramente sia quella che una volta che una persona è stata riconosciuta responsabile di corruzione, dovrebbe essere messa in condizione di non corrompere o di farsi corrompere più. E cioè dovrebbe essere messa a fare qualsiasi possibile lavoro che non sia però in relazione, sì, che non sia connesso con la movimentazione di denaro, insomma la possibilità di disporre. Forse, no? dovrebbe anche essere investito in una sorta di vergogna sociale che magari in Italia non c'è. Ma questa non c'è proprio perché la corruzione è così diffusa, la corruzione riguarda quante persone riguarda, ma quante sono? Io adesso non lo so. Non posso fare una statistica, ma quante sono le persone che prendono il caffè gratis al bar perché svolgono una funzione pubblica e magari danno così una certa garanzia al barista? Ma guardi, lei ha anticipato in qualche modo la mia domanda, perché nel suo libro Lettere a un figlio su mani pulite, lei, come ci ha detto, punta molto sull'educazione. Se ho capito bene, lei vuol dire smettetela di puntare il dito contro i corrotti altrui e pensate se voi sareste disponibili ad accettare comportamenti corruttivi. Ecco, gliela chiedo così: quanti italiani secondo lei, se potessero, ruberebbero? Io non credo che si possa fare una statistica seria, però secondo me sarebbero tanti. Ma secondo me sono tanti, io non credo che siano la maggioranza, però sono tanti, tanti, tanti. E in ogni caso esiste un modo di vedere abbastanza generalizzato per cui tutte le volte che è necessario, tutte le volte che fa comodo, vabbè, si chiude un occhio. Si chiude un occhio. D'altra parte, lei può vedere, perché sono delle cose completamente diverse, no? Però può vedere come esista una certa uguale propensione alla trasgressione anche in altri campi. Quante sono le persone che guidano usando il telefonino, per esempio? Sì, sì, sì. Cioè dice se appena si può, si trasgredisce. Se appena si pensa di non essere controllati, si trasgredisce. Il che vuol dire che si osservano le regole non per intima convinzione, ma per paura di essere scoperti quando si osservano, no? Sì, e molto, quindi quando manca il controllo non si osserva. Molto spesso è così, ma cos'è la differenza? Spesso si dice perché in Svezia la percezione è al 15% e non al 90%? Perché in Svezia c'è il controllo sociale, c'è più, oppure perché in Svezia gli svedesi sono geneticamente migliori? Non credo. No, non sono geneticamente migliori. Secondo me hanno fatto un pochino più di strada. Io credo che siano diventati un pochino più grandi di noi, cioè nonostante che l'Italia sia una repubblica e una democrazia, secondo me è molto diffuso in Italia lo spirito del suddito. Quindi quello che non ha un'autonomia di pensiero, che quindi dipende, no? Dipende. Allora, guardi, gli italiani sono dei grandi osservatori di regole in una serie di campi. Sì. Per esempio, tipo la burocrazia, la burocrazia spinta. Noi cerchiamo di. Ma chi si iscrive alla mafia, le regole della mafia le segue molto bene. No? I ragazzi che giocano che giocano ai videogame, eccetera, le regole dei videogame, eccetera, le seguono con estrema attenzione, ma seguono con estrema attenzione anche le regole del gruppo, del loro gruppo. Non quelle dello Stato. Sì, è un po' difficile che si seguano le regole dello Stato, perché lì c'è un rapporto ancora molto molto immaturo e molto spesso conflittuale, ancora non si è entrati nella prospettiva secondo la quale le istituzioni dovrebbero essere una emanazione, essere al servizio, essere funzionali al benessere dei cittadini. Allora Colombo, le faccio sentire questo audio di un qualcosa che forse ha già visto che lo chiedono tutti a quelli che sono reduci da quell'esperienza di mani pulite. Dicono tutti che qui parte l'inchiesta del secolo. Se chi comanda oggi è debole, dobbiamo capire chi comanderà domani. Sono ovviamente stralci del trailer di La Fiction, che non so se l'ha vista questa 1992. Beh, sì, non sono ancora riuscito, non ancora purtroppo riuscito. L'ho registrata ma ancora non sono è stato l'altro ieri, no? L'ho registrata ma ancora non sono riuscito a vedere. Quindi non le posso chiedere un giudizio, ma grande successo di pubblico, ma perché una fiction secondo lei è importante raccontare? È davvero un qualcosa che non uscirà dalla storia degli italiani? Ma io credo che sia stata un'esperienza, poi non sta a me dirlo perché ne sono stato in qualche modo molto coinvolto. Io in Mani Pulite ho lavorato dalla dall'aprile del 1992, gli ultimi processi si sono esauriti nel 2005, quindi sono 13 anni. E io credo che sia stata un'esperienza particolarissima, perché precedentemente, nonostante tutti gli sforzi che sono stati fatti, era impossibile non penetrare la crosta. Si arrivava alla superficie della corruzione, poi però succedeva qualche cosa che bloccava le indagini, le spostava da una città all'altra, tutte queste situazioni per cui non si riusciva a entrare. Invece nel 1992 si è scoperto il sistema della corruzione, ossia un sistema con delle regole molto molto precise e molto osservate, secondo le quali era più facile, io direi, che i rapporti tra pubblica amministrazione, imprenditoria e cittadinanza, anche per certi aspetti, fosse congiunta alla corruzione piuttosto che no. Insomma, il paradosso è anche lì, quelle regole della corruttela venivano rispettate in maniera rigorosa. L'ultima domanda è questa: ma la grande differenza tra allora e oggi, che allora si dice si rubava per incentivare il finanziamento ai partiti, adesso si ruba per se stessi, per le cricche, per i gruppi, è questa la grande differenza? Ma io credo che esista, secondo me, che adesso però non faccio più quel mestiere lì, allora investigavo, avevo le prove, eccetera. Adesso è soltanto un'impressione, la mia impressione è che il finanziamento illecito ai partiti si sia notevolmente, ma proprio notevolmente ridotto. Guardi che anche allora qualcosa a chi manovrava il denaro rimaneva attaccato alle mani. Immagino, non fa niente per niente. Succedeva che con una frequenza anche notevole. C'era qualcuno rarissimo o raro che svolgeva il suo compito con una diligenza assoluta. Solo per il partito. Però nella generalità dei casi chi manovrava il denaro, chi lo riceveva, eccetera, un pochino gli rimaneva, lo perdeva. Adesso credo che non sia così, sono cambiati anche un pochino i metodi. Allora era frequentissimo il contante, adesso forse un pochino di meno. Le transazioni all'estero erano molto frequenti allora, adesso chi lo sa, magari le consulenze, forse si ricorre di più a consulenze. Magari sì, o a mettere il figlio, a far lavorare i figli. Metodi più alternativi. Intanto io la ringrazio, Gerardo Colombo. Voglio ricordare a tutti: Lettera a un figlio su Mani Pulite, se volete leggere, edito da Garzanti, lo trovate ovviamente in libreria. Sono racconti di uno che da testimone l'ha vissuti quegli anni. Grazie a Gerardo Colombo, che è anche consigliere di amministrazione della RAI, non l'ho detto, ma perché oggi l'abbiamo intervistato ed è qui con una funzione diversa. Continuiamo a parlare di corruzione. Sapete che c'è un senatore, il senatore Lucio Barani, che tra l'altro è uno di quelli che dice sono un socialista fatto e finito per sempre, no? Amico, grande amico di Craxi, e non solo non lo rinnega, fece fare anche una statua a Craxi quando è stato sindaco, credo, ad Aulla. Lucio Barani propone, ma lo ha fatto in un emendamento che credo non passerà, la fucilazione o la gogna pubblica per i corrotti. Tra poco Lucio Barani è con noi. Che si chiama Gesù Cristo, cacciò i mercanti dal tempio? Forse sarei il caso di ricordarselo quando ci si proclama cattolici, eh? E non si fa una seria legge di corruzione e cacciare a calci nel c***o quelli che rubano? È il senatore Cioffi che pare abbia, del Movimento 5 Stelle, pare abbia preso un paio di bip, non solo questo, alla seduta del Senato. Ma poi, tra l'altro, il senatore Cioffi, c'è un altro audio in cui impazzisce a un certo punto, sentite qua. Dovete avere il coraggio di mettervi contro il potere, perché se no il potere siete voi, e sono loro, quando è che contrasterete il potere? È quello che vi ha distrutto, e a noi non ci distruggerà mai, perché noi il potere lo schifiamo. Eccolo lì. Succede questo quando si parla di corruzione. Succede anche, e voglio salutare il mio prossimo ospite, il senatore Lucio Barani di GAL. Buongiorno senatore Barani. Buongiorno a voi. Ma lei che ha fatto? Una provocazione. Dai, leggo articolo 1 bis. Lei propone emendamento chiunque è corrotto, in pratica, traduco, punito con la fucilazione da svolgersi pubblicamente nella piazza principale della città ove ha sede il tribunale competente per territorio. Attenzione, siccome noi poi schifiamo la pena di morte, giustamente, in Italia, la pena non può comportare la morte del reo. Che gli facciamo? Gli spariamo? Barani, gli spariamo in un polpaccio, che facciamo? È un emendamento aforismo, un emendamento provocazione, un emendamento, diciamo, per sensibilizzare l'opinione pubblica, che forse sì. Ritorniamo al 1863, quando si facevano la repressione del brigantaggio, sì. Quando c'è delle situazioni. Ma perché ha voluto fare questa provocazione? Cosa voleva dimostrare? Per combattere il cretinismo politico, la demagogia, il falso populismo, per non legiferare sull'onda emotiva. Vede, quando in una famiglia, sono un medico, quando sì. In una famiglia c'è un parente con un tumore maligno, non lo possiamo far operare tra 30 anni o 20 anni. Bisogna intervenire subito. Ah, cioè lei voleva sottolineare con questo che o si fanno dei processi, ma veramente efficaci, immediati, ma non 10 anni. C'è un altro emendamento che dice che bisogna creare dei tribunali speciali. Io sono socialista, sì. Sono del nuovo PSI, quindi sono uno che di garantismo ne conosce e sa quanto è importante portare avanti le garanzie costituzionali. E allora tribunali speciali o specifici, sua moglie quando ha bisogno di problemi ginecologici non va dall'ortopedico, va dal ginecologo, quindi quando c'è bisogno di tribunali veloci, efficaci, specifici su quella patologia, su quella malattia. Se no, lei dice l'alternativa provocatoriamente, certo. Spariamo un bel colpo in piazza. Come il decreto di Vittorio Emanuele II, re d'Italia del 1863, che sui brigantaggi c'era la fucilazione, la pena dei lavori forzati a vita, oppure la pena della fustigazione. C'è anche un emendamento sulla fustigazione. È vero, ma certo, la fustigazione. Anche, ma guardi che lei dice una cosa, che per esempio a Singapore, sa che è morto 2 giorni fa, 3 giorni fa, il grande padre di Singapore, Lee Kuan Yew, che ha regnato premier per 30 anni, e lui faceva le leggi, fustigazione a scuola, fustigazione, non so, non tiri lo sciacquone del cesso, un mese di pulizia, cioè le punizioni corporali a scuola, fustigazione per i bambini, e diceva è normale così. Ma guardi, questa legge che le citavo del Regno d'Italia, la fustigazione era per gli oziosi, i vagabondi, le persone sospette, uguali, siamo ritornati indietro di 152 anni, credo, 153. Ma io non ho capito se lei la vorrebbe oppure se sta provocando, cioè a dire... Ma no, io sono qui a dire, a citare una poesia di Pascoli, c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico, nel senso che il dire si legge, il 90% è percepito in Italia come corrotto, come corrotti, ma se facciamo due conti significa che sono 50 milioni di italiani che pensano questo, poi dicono sono 11 milioni le persone che hanno almeno ricevuto negli ultimi 12 mesi una richiesta di tangente, ma viva Dio, e sono solamente 4 milioni di dipendenti pubblici, supponiamo che siano tutti corrotti, ma Cristo, gli altri 5 chi sono? No. Quindi, ma l'idea è che forse gli italiani se potessero ruberebbero, e quindi il 90% vuol dire, la domanda magari sarà, lei prenderebbe 100 euro se potesse farlo e nessuno lo guarda? Io le ho già detto che bisogna puntare sulla prevenzione, faccio il medico, è meglio curare o prevenire? Prevenire sicuramente. Guardi, prima avevamo Gerardo Colombo, prima della pubblicità, uno del Pullman di Pulite, giammai, so che lei quando è stato sindaco ha fatto il comune di Pietrizzato, sì, il monumento alle vittime di Tangentopoli. Sì, ha fatto anche la statua di Craxi nel suo comune. Sì. Ma ascolti, lei ci andrebbe Don Chirurgo, che non ne azzecca una, che sbaglia tutti sempre queste metafore, no? No, ma non sono metafore, perché lei dice Di Pietro non ci azzeccava niente. Beh, per l'amor di Dio, ma l'hanno deciso, l'hanno capito gli italiani, non io, no? Ora, la politica è una cosa diversa. Ma io infatti ho parlato di cretinismo politico per associarlo al cretinismo tiroideo, quello congenito, endemico, da carenza di Lei è troppo dottore, io devo studiare un po' più medicina. Ma perché sto dicendo che in Parlamento abbiamo tolto le persone normali e capaci e abbiamo messo dentro quelli affetti a cretinismo politico. Chi sarebbero? Sono quelli che non hanno le capacità di legiferare. Cioè, a chi riferisce? No, i nomi non se ne fanno mai. A chi si riferisce? A quale partito? Quelli che vogliono legiferare sull'onda emotiva e si vogliono castrare per far rispetto alla propria moglie. Ma chi? Cioè, quelli del Movimento 5 Stelle, del PD? Ma forse anche. Quindi basta sentire gli interventi. Ho sentito che l'interfaccia... Vabbè, io non ce l'ho particolarmente con Cioffi, perché so che in aula molti hanno criticato questi miei emendamenti diciamo a mo' di parabole per far capire come c'era uno che 2000 anni fa le raccontava per far capire alla gente e dicevano ma poi ci dica il calibro che vuole usare io gli ho risposto ma tu quando ti fai corteggiare da un uomo gli chiedi il calibro ti fai corteggiare No, se c'era la Boldrini le dava del sessista, sono queste cose non si può. Ma lei è al Senato, quindi il problema non si può. Ma ormai abbiamo i veri padri della patria ormai si stanno rivoltando nella tomba, perché noi rappresentanti, dico noi, mi ci metto anch'io, non siamo nemmeno lontanamente loro parenti. La Costituzione è una cosa seria, noi la stiamo calpestando. Senatore, io la devo salutare, però qua intanto la ringrazio, ma questi emendamenti verranno discussi? No, sono stati bocciati, cassati. No, voglio, sono ammessi. Sono ammessi l'emendamento sulla fucilazione. Ma perché non comporta, non è anticostituzionale. Certo, è una esagerazione, è un aforisma, una metafora. Sì. Si chiamano emendamenti metafora perché vogliono portare il Parlamento a legiferare non in base all'onda emotiva, ma in base alla reale. A ragionare. No, ma senatore, la devo fermare, devo andare al traffico, se no sforo, torneremo a chiamarla. Lei è troppo simpatico, troppo medico ma simpatico. Lavoratori! Eccoci a parlare con i lavoratori 2.0, persone che ci scrivono, siete in tanti a 24 mattino e radio24.it e ci raccontano il proprio lavoro. Oggi voglio salutare Luca, buongiorno Luca. Sì, buongiorno. Tra l'altro Luca è straordinario perché mette insieme le ultime due nostre iniziative, lavoratore e sta pure all'estero, quindi il nostro ciao Italia. No? Luca, tu dove sei intanto? Sì, io mi trovo a Londra e sono qui per lavoro già da diversi mesi. Che fai di bello? Guarda, io sono qui, faccio un lavoro un po' particolare, faccio il croupier nei casinò. Wow, il croupier, esatto. A dove? Io non so niente, sono entrato una volta a Las Vegas in uno di questi casinò e non avevo neanche l'età giusta, mi hanno fermato subito i poliziotti. Ma hanno sbagliato a controllare le carte d'identità, hanno invertito le date e mi sono salvato. Dove sei tu alla roulette russa? Dove sei? No, praticamente faccio diversi tavoli. Scusa, prima parlavo con Barani di sparare la roulette. Per fortuna quella non c'è. No, quella non c'è. Per fortuna. A dove sei tu? Sì, cambio nell'arco di un turno, cambio diversi tavoli, alla roulette, al blackjack, poi ci sono altri tipi di giochi. Fantastico. Qual è la qualità primaria per essere un buon croupier? Bisogna essere veloci nei calcoli. Quello sì. Essere veloci nei calcoli ed avere una buona manualità. Ma è vero che bisogna anche guardare perché c'è quello che tenta di fregare, quello che dice la giocata è la mia. Sì, bisogna stare un po' attenti, però comunque c'è l'ispettore che segue il croupier e in più ci sono sempre le telecamere. E le mance come vanno a mance? Arrivano ancora gli sceicconi a lanciare delle belle mance. Diciamo che dipende dalle vincite che fanno i clienti, comunque non ci si può lamentare, dai. rispetto ad altri posti. E invece la più grande vincita, ce lo puoi dire senza violare, cioè, hai visto delle belle vincitone, no? Sì, ho visto persone che hanno vinto diverse migliaia, anche diverse decine di migliaia di euro, paragonati in euro. Però una cosa che non ho mai capito è quando uno magari fa una grande vincita, ma deve sempre mantenersi composto, no? Se è al casino, cioè vinci magari 10.000 sterline e devi stare, no? Composto. Beh, non tutti rimangono composti, comunque alcuni si lasciano anche un po' andare. Poi sai, comunque il casino è sempre un posto dove bisogna mantenere un certo aplomb. È chiaro, è chiaro. E quando tu lavori di notte, che fai? Lavori di sera, sera e notte, oppure è 24 ore su 24 aperto? No, non è aperto 24 su 24, io lavoro principalmente di sera o di notte, a volte mi capita anche di lavorare di pomeriggio, diciamo che dalle 15 del pomeriggio in poi sono aperti. È fantastico. E vabbè, il gioco che ti piace di più o dove si gioca di più, cos'è? Blackjack, no? La roulette. Allora, il gioco che io trovo più semplice è blackjack, quello più impegnativo è la roulette, perché ci sono tantissimi calcoli da fare in breve tempo. Per te o per i giocatori, perché io immaginavo la roulette, uno va lì, boom, butta su un numero e via. Invece no. Sì, per il giocatore credo sia più semplice la roulette, perché appunto, come dici tu, butta sulla fiche e quello che viene, viene. Esatto. Luca, intanto ti ringrazio tantissimo. Niente roulette russa ovviamente, ma solo roulette per il nostro croupier che ci segue da Londra. Luca, grazie davvero per essere stato con noi. Se voi volete raccontare il vostro lavoro, 24 mattino è radio24.it con Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Carmelo Lauricella. Vi diamo appuntamento a domani. No, io non ci sarò, ci sarà Anna Migliorati, domani sono in ferie, ma 24 mattino c'è. Certo che si può sapere che lavoro faccio. È molto semplice, va? Un cazzo! 24 mattino.